Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Marzo 1975. Siamo a Parma, è una fresca giornata primaverile. Nel campo sportivo della Cittadella, oggi sede degli allenamenti del Parma Calcio e poco distante dallo stadio Tardini, si sta per svolgere una partita di calcio molto particolare. A fronteggiarsi non sono due vere squadre, bensì due rappresentative di altrettante troupe cinematografiche che stanno lavorando nei dintorni a due film che lasceranno il segno nella storia del cinema italiano. Gli anni 70 sono un momento delicato per il cinema del nostro paese. Da un lato, i grandi autori che hanno segnato il decennio precedente, come Fellini, Antonioni, Visconti, continuano a realizzare film straordinari, mentre si affacciano anche giovani di grande talento e di grande spessore. Dall'altro, l'industria cinematografica inizia a scricchiolare. La televisione e la società dei consumi di massa hanno lentamente sgretolato la solidità del cinema italiano, il cui valore rimane legato per lo più a imprese artistiche isolate, come quelle che stanno portando avanti le due troupe che scendono in campo a Parma. Davanti a un folto pubblico di curiosi, le squadre entrano sul rettangolo di gioco. Una delle due squadre indossa la maglia del Bologna perché il regista che guida questa troupe sul set è grande tifoso dei rossoblù. L'altra ha divise addirittura realizzate per l'occasione dalla costumista Gitte Magrini. Maglie viola e gialle, calzettoni psichedelici per confondere i difensori avversari. La storia che vi raccontiamo oggi ha un andamento circolare e il cerchio che la descrive si chiude proprio lì, su quel campo da calcio. È la storia di un'amicizia quasi ventennale che nasce, cresce, si cementa, si interrompe e infine si rinsalda proprio grazie al pallone e a quell'amichevole dal sapore storico. La vicenda è incrociata di due uomini che pur in modi diversi hanno fatto grande il cinema italiano e segnato la cultura del nostro paese. Due uomini marcati da una differenza generazionale che ha permesso a uno dei due di scoprire e lanciare l'altro. Non vi sveliamo di più. Ci basta dire che i nostri personaggi di oggi sono naturalmente proprio i registi a capo delle due troupe che si fronteggiano su quel prato vicino a Parma. Iniziamo dal primo. Il suo nome è Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini. Bologna, 5 marzo 1922. La splendida città emiliana, come tutta l'Italia, vive gli ultimi mesi di libertà prima dell'inizio del tetro ventennio fascista. In questo giorno già primaverile nasce l'intellettuale che forse più di ogni altro inciderà sulla cultura italiana del secondo dopoguerra. Il padre di Pierpaolo Pasolini, Carlo Alberto, è un severo e rigido militare di origine romagnola. A causa del suo lavoro, la famiglia è costretta a continui spostamenti e cambi di residenze. Punto di riferimento dell'infanzia di Pasolini diventa la casa dei nonni materni a Casarsa, nel Friuli, dove trascorre le estati in compagnia di mamma Susanna, insegnante elementare. Un rifugio, quello di Casarsa, che il poeta in una sua celebre poesia descriverà così. Vecchio borgo, grigio e immerso nella più sorda penombra di pioggia, popolato a stento da antiquate figure di contadini e intronato dal suono senza tempo della campana. Fino alla metà degli anni 30, per la famiglia Pasolini, continuano gli spostamenti dettati dal lavoro paterno, disagi che non influiscono sugli studi di Pierpaolo, tanto brillante da arrivare alla maturità con un anno di anticipo, diplomarsi a pieni voti e iscriversi all'università a soli 17 anni. Gli studi universitari vengono affrontati a Bologna, intorno a lui l'Italia fascista. Quali sono le tre parole che formano il nostro dogma? Ebbene, camerati, in queste tre parole tu è e sarà il segreto di ogni vittoria. I giovani universitari vengono organizzati dal partito fascista nei cosiddetti GUF, gruppi universitari fascisti. Questi gruppi raccolgono fanatici fascisti, ma anche giovani che coltivano in sé i germi dell'antifascismo, che per curiosità, necessità e contingenza aderiscono alle attività dei GUF. È proprio il caso di Pasolini, che da giovane studente di lettere frequenta alcuni luoghi della gioventù fascista, mentre il suo pensiero è ancora alla ricerca di una forma strutturata. Nel frattempo, l'Italia entra anche in guerra. L'ora delle decisioni irrevocabili! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Di Gran Bretagna e di Francia. L'isteria collettiva che travolge l'Italia all'ingresso nel tragico conflitto, unita a un viaggio nella Germania hitleriana e a una naturale propensione a mal tollerare qualsiasi costrizione e imposizione dall'alto, sono gli elementi che allontanano definitivamente Pasolini dal fascismo, mentre le sue abbondanti letture lo spingono verso una rielaborazione critica e personale del marxismo. È ipotizzabile che l'autoritarismo del padre abbia contribuito in maniera determinante alla costruzione in Pasolini di un'intolleranza sincera e viscerale verso ogni sorta di imposizione dall'alto, verso ogni forma di controllo della società. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. La voce di Badoglio annuncia l'armistizio, è l'8 settembre. Alla vigilia dell'armistizio, Pasolini è stato chiamato alle armi e costretto ad arruolarsi, ma è presto fuggito a Casarsa. Lì inizia la sua attività poetica e apre in casa sua una piccola scuola privata per quegli studenti che a causa dei bombardamenti non possono raggiungere le scuole di Pordenone o di Udine. Nell'ottobre del 1944 Pierpaolo e la madre si trasferiscono a Versuta e dato che nel villaggio mancano la scuola e i ragazzi devono percorrere più di un chilometro per raggiungere la loro sede scolastica, decidono di aprire una scuola gratuita nella loro casa. È evidente anche nel giovanissimo Pasolini l'attenzione verso gli umili, verso coloro che stanno, per scelta o meno, ai margini della società. E poi il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, gioca con l'ombra d'un cortile. Il 7 febbraio del 1945, a Porzus, in Friuli Venezia Giulia, una milizia di partigiani filocomunisti massacra la Brigata Osotto, gruppo di partigiani moderati. Si tratta del famoso eccidio di Porzus. Tra i caduti c'è anche Guido, fratello 19enne di Pierpaolo. Questa notizia giunge a Casarsa diverse settimane dopo la fine della guerra, gettando Pierpaolo e la madre in un terribile strazio. Una lezione di vita che insegna a Pasolini in maniera chiara che al di là delle ideologie e delle responsabilità storiche, il bene e il male difficilmente sono separabili tra loro. Mentre l'Italia esce dal conflitto ridotta a un cumulo di macerie, mentre inizia la difficile impresa della ricostruzione, mentre gli intellettuali italiani si schierano dando vita al neorealismo, Pasolini discute finalmente la sua tesi di laurea. Argomento è la poesia di Giovanni Pascoli. Pasolini ottiene la laurea, con la quale il suo ruolo come insegnante e direttore della scuola, che egli stesso aveva fondato, diventa effettivo. Intanto, come molti intellettuali italiani in quel periodo, Pasolini aderisce al Partito Comunista Italiano. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'adesione al Partito Comunista, il pensiero di Pierpaolo Pasolini inizia ad assumere i suoi caratteri definitivi. La vicinanza al mondo contadino, agli umili, ai vinti, alla loro istintiva primitività, ancora lontana dall'omologazione dei media, diventa una costante della sua visione del mondo. In essi Pasolini vede una forza spontanea e vitale, ancora pura, l'unica in grado di cambiare il mondo. La civiltà dei consumi, del boom economico, viene invece vista come alienante, spersonalizzante, come uno strumento in mano ai potenti per appiattire la società ed eliminare le differenze. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro o di ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto. Ai bordi delle strade Dio è morto, nelle auto presarate Dio è morto, nei miti dell'estate Dio è morto. Nel settembre del 1949 Pasolini viene nominato insegnante di lettere nella scuola media di Valvasone, paesino vicino a Casarsa, che raggiunge ogni mattina in bicicletta per mantenersi in forma e allenato. Gioca a pallone Pasolini, alla destra. La passione per lo sport, per il calcio e per il Bologna in particolare è forte e intensa, così come la passione politica. In questa fase iniziale la sua adesione al PC appare molto convinta. Sempre nel 1949 prende parte alla manifestazione in Friuli organizzata dalla Camera del Lavoro per ottenere l'applicazione del Lodo De Gasperi, legge che prevedeva il pagamento ai contadini da parte dei proprietari terrieri delle riparazioni di guerra. Osservando e parlando con i giovani contadini, Pasolini può approfondire il contatto con quel mondo arcaico e per lui affascinante, costituito da chi vive ai margini del progresso. In questo periodo progetta la composizione del suo primo romanzo, che completerà solo molti anni dopo. E in questo periodo inizia la composizione regolare di racconti, poesie e saggi. Sempre in quell'anno Pasolini partecipa al primo congresso della Federazione Comunista di Pordenone e in maggio si reca a Parigi per il Congresso Mondiale della Pace. Alla fine del 1949, però, la sorte di Pierpaolo cambia. Inizia per lui quella trafila di scandali, voci, chiacchiere che lo renderà una figura controversa e troppo spesso legata nella visione dei suoi detrattori a sterili stereotipi. Viene infatti denunciato per corruzione di minorenni e atti osceni in luogo pubblico e i suoi avversari politici, sfruttando lo scandalo, lo accusano di omosessualità, mentre i dirigenti del PC di Udine decidono di espellerlo dal partito. Gli viene anche tolto l'incarico dell'insegnamento. Nel piccolo paese di Casarsa fa più rumore l'omosessualità del poeta e letterato, delle sue posizioni e delle sue opere. Uno dei tanti scandali spinge Pasolini ad abbandonare la provincia friulana e a trasferirsi a Roma. Roma all'inizio degli anni 50 è una città in fermento. La ricostruzione è solo all'inizio, ma la rinascita culturale è già iniziata da un pezzo. Si intravedono già i segni di quello che sarà il fenomeno del boom economico degli anni 50. Riaprono i negozi, i locali, iniziano a diffondersi i primi beni di consumo, i simboli della futura Italia del boom. Tra essi occupa un posto di rilievo, dal 1954, la televisione. Nella capitale, per Pasolini, dopo le iniziali difficoltà, arrivano gli incontri importanti della sua vita. e pur negli affanni di una vita costantemente tormentata, i primi successi, sempre accompagnati da infinite polemiche. Così, mentre conosce scrittori e intellettuali come Sandro Penna e Carlo Emilio Gadda, mentre stringe amicizia con borgatari e gente comune del popolo, tra cui l'imbianchino Sergio Citti, a cui regalerà notorietà e successo, pubblica i suoi primi romanzi. Ragazzi di vita e Una vita violenta, che insieme alle provocatorie tesi sulla politica e sul potere, sollevano un vespaio di polemiche per la rappresentazione cruda e spinta della vita dei ragazzi delle periferie romane. Nulla è più anarchico del potere, il potere fa praticamente ciò che vuole e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettatoli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica. Tra gli intellettuali con cui Pasolini stringe amicizia e che gli testimoniano vicinanza c'è il poeta Attilio Bertolucci, che il destino vuole diventi suo vicino di casa. Pasolini infatti si trasferisce con la madre nello stesso stabile dove il poeta vive con i suoi due figli. I due, Pasolini e Attilio Bertolucci, si scambiano riflessioni e poesie, pareri e opinioni. Pasolini confessa al vicino di casa il suo desiderio, iniziare a raccontare le proprie storie e a esprimere se stesso attraverso il cinema. Attilio gli racconta che uno dei suoi figli sogna da sempre di fare il regista. Roma, primavera 1961. Pierpaolo Pasolini sta rincasando. Ha appena concluso gli accordi per la realizzazione di Accattone, il suo primo film. Fuori dal portone c'è il figlio maggiore di Attilio Bertolucci, un ragazzo di 20 anni. Gli dice che dirigerà un film e aggiunge: «Mi dici sempre che ti piace tanto il cinema. Beh, sarai il mio aiuto regista». Il vicino, quasi spaventato, risponde: «Non so se ne sono capace, non ho mai fatto l'aiuto». «Neanche io ho mai fatto il regista», risponde Pasolini. Quel ragazzo è Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci. Io non sapevo per cosa vivevo, io non sapevo a che cosa servivo. Ora so, i miei occhi servono. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo partiti da un incontro di calcio. Non uno dei tanti incontri che abbiamo spesso raccontato, bensì una partita tra due compagini amatoriali. Le troupe di due film diversi che si affrontano in provincia di Parma il 16 marzo 1975. I film sono Salò e le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini e 900 di Bernardo Bertolucci. I due registi sono anche i nostri personaggi di oggi. Per giungere a comprendere il significato di quel match di calcio dal sapore tutto particolare, abbiamo fatto un passo indietro, scoprendo insieme la prima parte della parabola artistica e intellettuale di Pierpaolo Pasolini. Fino al 1961, anno in cui, in un giorno primaverile, Pasolini incrocia davanti al portone di casa il suo vicino ventenne, aspirante cineasta, e gli chiede di fare l'aiuto regista per il suo primo film. Quel ragazzo è Bernardo Bertolucci, e il film sul cui set si incrociano i destini dei due più importanti registi italiani degli anni 60 e 70 è Accattone. Ma lo sai chi è Accattone? Accattone manco più me se lo porta via. Proprio Bernardo Bertolucci ricorda così in un'intervista alla televisione francese la sua esperienza sul set di Accattone. Sono stato assistente di Pasolini per il film Accattone. Siccome abitavamo nello stesso palazzo, ogni mattina andavamo sul set insieme. Veniva a svegliarmi alle 7:30 di mattina e andavamo in macchina. E durante tutto il tragitto, dal quartiere in cui abitavamo alla zona in cui stavamo girando, che era nelle Borgate, mi raccontava i sogni che aveva avuto durante la notte. E questi sogni gli tornavano in qualche modo utili per il film. Questo modo di pensare il cinema, quasi fosse un filo diretto con l'inconscio, mi ha notevolmente influenzato nella mia carriera. Accattone è una sorta di versione cinematografica del controverso Ragazzi di vita, romanzo per il quale Pasolini viene addirittura processato e come sempre assolto nel 1955. Decisive per la soluzione con formula piena le illustri testimonianze di Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti, che descrivono come un capolavoro il romanzo pasoliniano. A Cattone arriva al Festival del Cinema di Venezia, dove viene accolto tiepidamente dalla giuria e dalla critica italiana, mentre riscuote enormi consensi presso la critica estera, soprattutto quella francese. Grazie a Pasolini, Bernardo Bertolucci vive anche la sua prima esperienza in Laguna e sempre indirettamente grazie a Pasolini e ad Accattone conosce l'attrice Adriana Asti, che sarà per lungo tempo sua moglie e compagna di vita. Finalmente un'opera degna della Mostra del Cinema, Accattone. Una storia scritta con la macchina da presa. Un film che non nasce dal cinema, ma da un'esperienza poetica. Un film che ha provocato il più delirante successo della 22esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, scritto e diretto da Pierpaolo Pasolini. Poco tempo prima di Accattone, Pasolini aveva iniziato a scrivere una sceneggiatura cui aveva dato il titolo di La Commare Secca. Aveva anche girato due sequenze, diciamo, dimostrative per il produttore Alfredo Bini, che poi produrrà Accattone. Dopo il buon esordio, Pasolini sceglie di affidare quella sceneggiatura proprio a Bertolucci, in cui vede lo spessore e la profondità del padre e poeta Attilio, e a cui riconosce grande intuito visivo. Tra i due c'è ormai una solida amicizia. Così, nel 1962, Bernardo Bertolucci completa il copione con l'aiuto di Sergio Citti, ex in Bianchino e grande amico di Pasolini, e gira il suo primo film, intitolato appunto La Commare Secca. Anche La Commare Secca viene presentato a Venezia nel 1962 e divide a sua volta il pubblico in detrattori e ammiratori. Uno dei motivi del successo che il primo film di Bertolucci riesce a ottenere presso il pubblico è indubbiamente la presenza di un celebre brano di Claudio Villa. Lo sai che non è vero, non è vero che è finito il nostro amore. Addio, addio, addio, addio. Mentre sia Pasolini sia Bertolucci si apprestano a girare il secondo film delle rispettive carriere, continua l'accanimento della società italiana e dei ben pensanti nei confronti del regista di Accattone. Nel giugno del 61 Pasolini viene denunciato e poi assolto per favoreggiamento, perché dà un passaggio in macchina a due ragazzi di Trastevere che erano ricercati dalla polizia per avere scatenato una rissa. Pasolini avrà modo di dichiarare a un giornale: quella nei miei confronti è una cattiveria che provoca un profondo dolore a chi ne è colpito. Dà il senso di un mondo di totale incomprensione, dove è inutile parlare, appassionarsi, discutere. Dà il senso di una società dove per sopravvivere non si può che essere cattivi, rispondere alla cattiveria con la cattiveria. Certamente quello che devo pagare io è particolarmente pesante. Delle volte mi dà un vero e proprio senso di disperazione, ve lo confesso sinceramente. Le tappe successive del percorso artistico di Pasolini non sono meno controverse. Il secondo film è Mamma Roma, scritto con Sergio Citti appositamente per Anna Magnani. Il film ottiene un grande successo, così come la raccolta di poesie La religione del mio tempo. Molto intensa diventa anche l'amicizia con lo scrittore Alberto Moravia e con Elsa Morante. Il fattaccio però avviene nel 1963. In quell'anno Pasolini partecipa, insieme a grandi registi come Godard, Rossellini e Gregoretti, al film ad episodi Rogo Pug. Il suo episodio si intitola La ricotta. Ha come protagonista niente meno che Orson Welles ed è una ricostruzione un po' particolare, piuttosto iconoclasta, della Passione di Cristo. E inizia con questa dichiarazione, pronunciata dallo stesso Pasolini. Non è difficile prevedere per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io voglio qui dichiarare che comunque si prenda la ricotta, la storia della passione che indirettamente la ricotta rievoca è per me la più grande che sia mai accaduta e i testi che la raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti. La ricotta narra la vicenda di un povero Cristo, un sottoproletario che muore in croce durante le riprese di un film a causa di un'indigestione di ricotta. Il film viene sequestrato il giorno stesso della sua uscita. Pasolini viene denunciato e processato per vilipendio alla religione, infine condannato a 4 mesi di reclusione. La pellicola vedrà la luce solo a dicembre e l'amico Alberto Moravia commenterà: l'accusa era quella di vilipendio alla religione. Molto più giusto sarebbe stato incolpare il regista di aver vilipeso i valori della piccola e media borghesia italiana. Naturalmente, tra le voci che maggiormente fa sentire la propria vicinanza a Pasolini c'è quella di Bernardo Bertolucci. Bertolucci, dopo il discreto successo dell'esordio, gira film che ottengono un consenso di critica sempre più consistente, ma scarso riscontro presso il grande pubblico. Sono Prima della rivoluzione, La strategia del ragno e Il conformista. Il fatto curioso è che il successo internazionale arrivi nel 1972 proprio a causa di una disavventura simile a quella accaduta al maestro Pasolini, ossia sequestro del film e denuncia. Si tratta del celeberrimo caso di Ultimo Tango a Parigi. Il film viene proiettato integralmente in anteprima mondiale il 14 ottobre 1972 a New York, scatenando subito infinite discussioni. In Italia esce il 15 dicembre 1972. La settimana seguente il film viene sequestrato per esasperato pansessualismo fine a se stesso. Inizia un iter giudiziario che porta il 2 febbraio 1973 a una sentenza di assoluzione in primo grado, a una di condanna nel secondo processo d'appello il 20 novembre 1974 e il 29 gennaio 1976 alla sentenza della Cassazione che condanna la pellicola al rogo. Vengono salvate alcune copie come corpo del reato. Per il regista arriva una sentenza definitiva per offesa al comune senso del pudore, reato per il quale viene privato dei diritti civili, fra cui quello di voto, per 5 anni e viene condannato a 4 mesi di detenzione, una pena poi sospesa. Tutto per aver espresso liberamente una propria idea artistica. Nell'ottobre del 1982 la pellicola viene proiettata a Roma durante una rassegna cinematografica dal titolo Ladri di cinema. Il fatto costa agli organizzatori una denuncia. Questi però saranno assolti poco dopo e l'opera non sarà più considerata proibita. A distanza di 15 anni, nel 1987, la censura riabilita il film, permettendone la distribuzione nelle sale. Bertolucci stesso ne aveva conservato clandestinamente una copia. Il film, datato 1972, non è solo il momento della consacrazione di Bertolucci, ma anche l'episodio che determina la rottura tra il regista e Pasolini. Quest'ultimo, infatti, non difende pubblicamente il film di Bertolucci, anzi, avanza più di una perplessità sull'opera del suo vecchio amico che egli stesso aveva fatto esordire. Si determina una situazione di gelo e freddezza che solo una partita di calcio saprà sciogliere. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta l'incrocio di destini tra due figure chiave della cultura italiana del secondo dopoguerra, due registi di cinema, Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci. Vicini di casa, il primo lancia il secondo reclutandolo come aiuto regista nel suo film d'esordio, Accattone. Entrambi sono personalità di successo, entrambi sono figure controverse, destinate a dare scandalo. Pasolini, omosessuale e provocatorio. Bertolucci, sincero e viscerale. Con La ricotta il primo e con Ultimo tango a Parigi il secondo, sperimentano l'amarezza di un processo per vilipendio alla religione e per oscenità, e il sequestro delle pellicole. Il rapporto si incrina quando Pasolini non si schiera apertamente in difesa del film dell'amico. Al contrario, si unisce alle polemiche. Ci vorrà qualche anno prima che i due possano ritrovarsi. In realtà, già prima di Ultimo tango a Parigi, i due avevano assunto posizioni fortemente divergenti su alcuni temi. Il più clamoroso è indubbiamente legato alla posizione assolutamente originale e indipendente che Pasolini assume rispetto al 68 e alla contestazione studentesca. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Sono versi tratti dalla poesia Il PC ai giovani, che viene pubblicata sull'Espresso all'inizio di giugno del 1968. In essa Pasolini esprime le proprie aspre perplessità nei confronti degli studenti che a Roma, a Valle Giulia, poco tempo prima, si sono scontrati duramente coi poliziotti. La posizione del letterato è sorprendentemente dalla parte dei poliziotti, veri eroi proletari contro gli studenti figli di papà. In molti a sinistra non apprezzano, nemmeno Bertolucci, che dei movimenti di contestazione fa parte. E così viene posto il primo tassello al gelo del loro rapporto. In the darkness with the radio playing low end, and the secrets that we share. Mountains as we move. Caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Se per Bertolucci gli anni 70 si aprono all'insegna dei problemi a causa dello scandalo di Ultimo Tango a Parigi, altrettante difficoltà continua a vivere Pierpaolo Pasolini, sempre più osteggiato dalla cultura ufficiale italiana, dalla politica, dal mondo borghese. A contatto con un paese che entra nel decennio più controverso della sua storia, il pessimismo di Pasolini si radicalizza, viene meno ogni speranza. Lo descrive così il giornalista Furio Colombo. Era un uomo molto forte. Ed era un uomo che disponeva della sua parte di forza per reagire e contrastare, per esempio il cinema. Era un personaggio di statura internazionale, certamente nell'opinione pubblica europea, francese, tedesca, ma anche in quella americana. Non è affatto vero che non credo nel progresso. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo. E nella fattispecie in questo sviluppo. Ed è questo sviluppo semmai che dà alla mia natura Gaia una svolta tremendamente triste, quasi tragica. Intravedevo un'epoca di generale accettazione e sottomissione, nella quale in fondo ti va bene tutto ciò che sarà deciso, nella quale i media diventano omologati, anche quei media che dovrebbero essere di ribellione e di contrasto, e nella quale la televisione è uno strumento di comunicazione, ma non di informazione, è lì che lui vedeva la differenza, e attraverso la comunicazione di controllo. Per Pasolini, anche le classi sociali cui aveva sempre affidato una speranza di rinascita, gli umili, i poveri, gli ultimi, i borgatari delle periferie romane, vengono corrotti dalla civiltà dei consumi. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. Pasolini gira nei primi anni 70 la cosiddetta trilogia della vita, il Decameron, i racconti di Canterbury, il fiore delle mille e una notte. L'ultimo sussulto di speranza, prima della decisione di filmare la morte, la sconfitta, la disfatta morale dell'Italia. Salò e le 120 giornate di Sodoma, liberamente ispirata a un celebre racconto del Marchese de Sade, uno dei film più sconvolgenti della storia del cinema italiano. Proprio dal set di Salò, dove inevitabilmente si respira un'aria pesante, parte il riavvicinamento tra Pasolini e Bertolucci. Per stemperare la tensione che si percepisce nella troupe, Pasolini, grande appassionato di calcio, organizza partite ad ogni pausa pranzo. Il film viene girato nei pressi di Mantova, nella villa di Ponte Merlano di Roncoferrato. Non molto lontano, Bernardo Bertolucci sta girando 900. La città di Parma lancia l'idea: festeggiare Bertolucci, che di Parma è originario, con una partita tra le due troupe per incentivare anche la riconciliazione tra i due cineasti. E così si arriva al fischio d'inizio. Ci sono versioni contrastanti su come sia andata quella partita. Le notizie certe sono la vittoria della squadra di Bertolucci per 5-2, il fatto che il regista parmense non sia sceso in campo, il fatto che Pasolini invece sia sceso in campo alla destra e si sia pure arrabbiato non amando perdere, mentre il fido Ninetto Davoli la buttava sul ridere. Pare anche certa la disapprovazione di Pasolini per le divise sopra le righe degli avversari. Certo è che in questo modo il cerchio dell'amicizia tra i due vecchi vicini di casa si conclude e si chiude poco prima che una tragedia inspiegabile si porti via uno dei due. Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte a Ostia. Un giovane di 17 anni, fermato a un posto di blocco mentre era alla guida dell'automobile dello scrittore, è stato arrestato sotto l'accusa di omicidio volontario. Lungo il tragitto, secondo la confessione del giovane, ci sono state altre due fermate. Poi Pasolini si è diretto verso lo spiazzo nei pressi del Libro Scalo. Un posto, avrebbe detto il giovane, dove io non ero mai stato, ma che egli doveva conoscere bene perché lo ha trovato senza difficoltà. Cosa realmente accaduto nello spiazzo difficilmente potrà essere accertato con assoluta sicurezza. In base al racconto del giovane diffuso dalle agenzie di stampa, Pasolini sarebbe sceso dalla macchina insieme con lui. Il ragazzo avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva. Ci sarebbe stata quindi una violenta discussione e Pasolini, secondo il racconto del giovane, avrebbe raccolto per terra un bastone colpendo il ragazzo alla testa. Il giovane avrebbe raccontato che, accecato dal sangue che gli scendeva lungo il viso, ha divelto un pezzo di legno da una staccionata, cominciando a colpire Pasolini fino a quando lo scrittore non è caduto a terra. Le circostanze della morte di Pasolini rimangono tutt'oggi misteriose. Pino Pelosi, il ragazzo che all'epoca aveva confessato l'omicidio, ha da poco ritrattato. Crescono le ipotesi complottistiche che vorrebbero l'omicidio legato a Salò o al romanzo Petrolio. Tutto può essere. Certo, oggi più che mai si sente la mancanza di un intellettuale lucido e profondo come Pasolini. Lo ha sottolineato lo stesso Bertolucci, che poco dopo la morte dell'amico ha curato il commovente documentario Il silenzio e complicità e che continua, con il fratello Giuseppe, a occuparsi di omaggi sentiti e profondi al grande Pierpaolo, per non dimenticare la profondità di una storia sbagliata. È una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata, una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24. Ho visto